Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo del pensiero, il cambiamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 739 e parleremo di linci, di corridoi mancati, di nuovi cibi e della difficile vita dei cani. La colonna sonora della puntata è curata da Gianluca Masala. La ricetta della settimana, come al solito, è affidata a Gabriele Palloni. Abbiamo tanto parlato di orsi, che abbiamo ormai acquisito una certa dimestichezza coi problematici rapporti fra le società umane e i progetti di reinsediamento di specie animali localmente estinte o in via di estinzione. Gli orsi del Trentino, come è noto, a suo tempo sono tornati sulle nostre montagne grazie al progetto Life Ursus, iniziato trasferendo alcuni orsi dalla Slovenia. Restiamo nello stesso quadrante geografico e parliamo di linci. È dei giorni scorsi la notizia che il progetto Life Links, progetto partito nell'estate del 2017, può dirsi concluso positivamente, almeno per quanto riguarda le montagne slovene, parte delle Alpi Dinariche, che si estendono appunto fra Slovenia e Croazia, sede del piano di ripopolamento delle linci. Stando a quanto riportato sul quotidiano triestino Il Piccolo, già all'inizio del XX secolo le linci nella zona erano state sterminate dai cacciatori. Ai tempi della Jugoslavia, tuttavia, si era tentato un progetto di ripopolamento, partito nel 1973. Nuove linci erano state importate dai Carpazi ed erano riuscite a diffondersi piuttosto rapidamente fra Slovenia e Croazia, raggiungendo anche la Bosnia, per poi attraversare il confine con l'Italia e anche quello con l'Austria. Le linci, come tutti i selvatici, come è noto, non rispettano i confini, sono internazionaliste. Questa situazione è però durata poco e piano piano la popolazione di linci ha cominciato a calare. Forse perché, come suggeriscono i tecnici, ancora debole in termini di varietà genetica, o forse anche perché le doppiette, anche per le linci, non hanno mai davvero smesso di entrare in azione. E si è arrivati così alle soglie di una nuova estinzione ed ecco nel 2017 il piano Life Links, con l'arrivo di 18 linci, prelevate stavolta in Slovacchia e in Romania e reintrodotte sulle Alpi Dinariche. In 7 anni gli immigrati felini sembrano essersi ben adattati, tanto da aver dato alla luce una trentina di piccoli. Questi a loro volta hanno creato nuove famiglie, occupando un'area che spazia fra la Croazia, l'Austria e la Slovenia. E così, nel 2024, è possibile dire che esiste una popolazione stabile sulle Alpi, la quale si sposta liberamente anche verso l'Italia e addirittura fino in Svizzera. Non si hanno notizie di conflitti pratici e soprattutto ideologici come quelli osservati in Trentino. Le linci evidentemente sono animali meno simbolici degli orsi, meno suscettibili di essere usati in strategie di costruzione della paura. Restano tuttavia problemi concreti sul terreno, a partire dalle infrastrutture che spezzano la continuità degli ecosistemi.

Secondo Massimo Vitturi, responsabile dell'area selvatici della LAV, Lega Antivivisezione, questo governo e questa maggioranza sono infiltrati a tal punto da ogni categoria che vive sullo sfruttamento e sull'uccisione degli animali di qualsiasi specie, da giungere a bocciare addirittura un emendamento espressione della loro stessa maggioranza, emendamento che puntava ad incrementare la sicurezza degli automobilisti. In caso di incidenti con animali selvatici, d'ora in poi, ogni cittadino saprà a chi chiedere conto per i danni e le ferite subite. Una consolazione, aggiungiamo noi, davvero molto magra. Francis skinny man died of a big disease with a little name. By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time, now he's doing horse. It's June. Restiamo nelle aule parlamentari, ma spostiamoci in Brasile per riferire di un progetto di legge contro la violenza genetica, chiamiamola così. Prendiamo la notizia dal portale lazampa.it. Alla Camera dei Deputati di Brasilia sono stati presentati due progetti di legge che prevedono il divieto di riproduzione e di vendita di razze canine come lo Shih Tzu, il carlino, il Bulldog, cioè i cani brachicefali, con la testa quindi troppo piccola, più comunemente conosciuti nell'orribile classificazione razziale assai diffusa come cani a muso corto. Entrambe le proposte di legge nascono dall'elevata probabilità che hanno questi animali di nascere con narici strette e trachee sottosviluppate, con impliciti gravi problemi di respirazione. Secondo la proposta più restrittiva in discussione, chi viola le possibili nuove regole sarebbe punito secondo la legge sui reati ambientali, con una pena detentiva quindi che varia da 3 mesi a 1 anno, oltre all'obbligo di pagare una multa. Ma al di là delle sanzioni, ovviamente, una legge del genere sarebbe importante per affermare un principio e cominciare a demolire la retorica e la pratica della selezione razziale dei cani, tanto diffusa e radicata da apparire nel senso comune come normale. E qualcosa di analogo, come ben sappiamo, esiste anche per i gatti. La prima proposta di legge brasiliana è stata presentata dalla deputata Duda Salabert e il testo prevede che deve essere vietata l'acquisizione, la vendita, l'importazione e la riproduzione intenzionale di animali da compagnia che presentino caratteristiche fisiche dannose, causando sofferenze permanenti derivanti da pratiche di allevamento selettivo incentrate principalmente sull'estetica. Questo è il testo della legge. Duda Salaberta ha fatto anche riferimento al modello legislativo olandese, che ha già messo nel mirino la riproduzione dei cani brachicefali e dei gatti dalle orecchie piegate, altra perversione razzistica. La seconda proposta di legge è stata presentata dal deputato Nilto Tatto, il quale ha spiegato che il disegno di legge può sembrare un provvedimento pregiudizievole e strano, ma in realtà mira a prevenire la sofferenza di questi animali, dal momento che l'incrocio di cani dal muso sempre più corto ha portato a diverse trasformazioni fisiche e ha pregiudicato la salute e le condizioni di vita degli animali. A noi la proposta naturalmente non appare né pregiudizievole né strana, ma utile a trasformare relazioni profondamente sbagliate con gli animali cosiddetti domestici. Vi invitiamo su questo punto a riascoltare sul nostro sito restiamoanimali.it gli interventi di Massimo Raviola per la sua rubrica Che razza di bastardo. Una buona notizia arriva dalla Toscana, dove i cani non potranno più essere tenuti legati alla catena. La giunta regionale ha approvato in via definitiva il regolamento che lo vieta. Il divieto era stato introdotto l'anno scorso per l'estate, attraverso un'ordinanza firmata dal presidente Eugenio Giani, che era intervenuto perché il caldo e il pericolo di incendi rischiavano di procurare addirittura la morte dei cani legati alla catena, come purtroppo in qualche caso era accaduto. La giunta toscana con il suo provvedimento ha quindi modificato il regolamento del 2011, che ancora, sia pure in via eccezionale e per un massimo di 6 ore al giorno e con catene lunghe almeno 6 metri, prevedeva la possibilità di tenere i cani legati. Unica eccezione ancora ammesse, i casi di comprovate ragioni sanitarie e di urgenti misure di sicurezza. La Toscana con questo provvedimento segue la stessa strada imboccata da Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Abruzzo, Puglia e provincia di Trento. Qualche regione manca ancora all'appello e questo avviene perché in Italia non esiste alcuna legge nazionale applicabile su tutto il territorio che vieti la pratica di legare i cani alla catena. Take a little walk to the edge of town and go across the track. Where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. You don't have no car, get you one. Self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand. Torniamo a parlare di carne coltivata, il nuovo cibo che ancora prima di comparire realmente sul mercato è già fonte di discussioni e di divisioni profonde. Il mondo animalista, che pure è abituato a compiere una scelta semplicemente vegana, senza bisogno di grandi supporti industriali, vede complessivamente di buon occhio questa novità, pensando e sperando che possa indurre cambiamenti alimentari tali da permettere di avvicinare almeno un traguardo, la progressiva riduzione fino alla scomparsa degli allevamenti industriali. Non è detto che questo sia il risultato finale, e comunque la battaglia sulla carne coltivata è tuttora aperta, con i detrattori in prima fila guidati dai produttori della filiera alimentare e con l'appoggio della destra di governo, che dice di agire a sostegno del Made in Italy e dell'alimentazione tradizionale, qualsiasi cosa questa espressione voglia dire, in un'epoca segnata da supermercati omologati alle esigenze del mercato alimentare globale. Comunque sia, per saggiare lo stato d'animo di addetti ai lavori e popolazione, l'Università di Ferrara, in collaborazione con l'Istituto SWG, ha condotto uno studio su un campione di popolazione, scoprendo che chef, futuri chef e consumatori sono favorevoli all'introduzione della carne coltivata nei menù. C'è tuttavia un ma, e cioè il fatto che la carne coltivata non viene considerata come alternativa alla carne tradizionale, semmai come un'aggiunta da immettere all'interno di menù dedicati. Una preferenza motivata soprattutto dai possibili effetti benefici sulla salute e sull'ambiente. L'indagine ha riguardato 5 chef professionisti, 741 futuri chef, cioè studenti e studentesse al quinto anno di istituti alberghieri, 1000 consumatori e 1000 possessori di animali domestici. Dagli studi condotti, ha spiegato Fulvio Fortezza del Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Ferrara, emergono interesse e curiosità da parte degli intervistati nei confronti della carne coltivata, che non va vista in contrasto o contrapposizione con la carne tradizionale, soprattutto quella di qualità, bensì con quella proveniente da allevamenti intensivi. È una valutazione questa che però dovrebbe fare i conti col fatto che la carne industriale è la quasi totalità di quella presente sul mercato, quindi la trasformazione potrebbe essere in effetti radicale e confortare le speranze dei gruppi animalisti. L'indagine però non riesce a spingersi così lontano ed è prematuro esprimere un giudizio definitivo. Fatto sta che, pur affermando l'interesse, la curiosità, la disponibilità verso la carne coltivata, l'86% degli intervistati afferma che non la utilizzerebbe al posto della carne tradizionale. Insomma, per capirci davvero qualcosa, dovremo aspettare l'arrivo sul mercato di questo nuovo cibo. Chi vivrà almeno assaggerà. Bruises on both my knees for you, don't say thank you, oh please, I do what I want when I'm wanting to, my soul so cynical. So you're a tough guy, like you really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Duh. Daniele Palloni, come ogni settimana, ci regala una ricetta non violenta che prende spunto da uno degli argomenti trattati nella puntata. Vi ricordiamo che Gabriele Palloni è autore, fra gli altri, del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Sentiamo che cosa ci ha preparato questa settimana. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Se come la comunità di Linci vi ritrovate a passare fra la Slovenia e la Croazia, non potete perdervi questa prelibatezza 100% vegetale, il Soparnik. Gli ingredienti sono, per l'impasto, 500 g di farina tipo 0, 250 ml di acqua, 50 g di olio extravergine di oliva e del sale. Per il ripieno, 1 kg di bietole lessate e tritate grossolanamente, 3 cipollotti freschi, 1 spicchio di aglio, 1 mazzetto di prezzemolo, olio extravergine di oliva e sale. Versate la farina ed il sale in una ciotola, fate un foro al centro e versate all'interno l'olio e l'acqua. Impastate fino ad ottenere un impasto omogeneo che dividerete in due parti. Lasciate riposare per una mezz'ora coprendo con un canovaccio. Nel frattempo preparate il ripieno. In una ciotola mescolate la bietola, i cipollotti, il prezzemolo, il sale e l'olio. Stendete la pasta formando due cerchi di circa 40 cm di diametro. Adagiate il primo disco su una teglia da forno spolverata di farina, lasciando che l'impasto fuoriesca dal bordo. Distribuite il ripieno e coprite con il secondo disco di pasta. Sigillate premendo sui bordi e bucherellate la superficie con una forchetta. Infornate a 180 gradi per 40 minuti. Quando sarà dorata, togliete dal forno e spennellate la superficie di olio aromatizzato con aglio tritato e servite. Questa puntata è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Gianluca Masala, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.